Buongiorno a tutti e benvenuti alla seconda puntata di Pillole di consapevolezza Impariamo a volerci bene su Radio Big World. Io sono Elisa Pasquini e faccio parte dell'associazione Energicamente. Come vi ho detto nella prima puntata, mi occupo di rimedi floreali, oltre ad essere un'educatrice cinofila ed un'operatrice Reiki. Nella prima puntata avevamo iniziato il nostro viaggio nei meravigliosi fiori di Bach. Oggi vorrei continuare con voi questa avventura entrando più in dettaglio nei 38 fiori. Ma prima di entrare nel vivo della puntata vorrei leggervi un estratto dei 12 guaritori del dottor Edward Bach. Poiché le piante guariscono le nostre paure, le nostre ansie, i nostri difetti e le nostre debolezze, sono questi stati mentali che dobbiamo ricercare in noi e vedremo che la malattia, qualunque essa sia, ci abbandonerà. Come vi avevo detto nella scorsa puntata, i 38 rimedi del dottor Bach si dividono in 7 categorie: fiori per la paura, per coloro che soffrono di incertezza, fiori per l'insufficiente interesse per il presente, per la solitudine, per l'ipersensibilità alle influenze e alle idee, per lo scoraggiamento e la disperazione, per la preoccupazione eccessiva per il benessere degli altri. Adesso iniziamo a affrontare quindi il primo gruppo, fiori per la paura. Fanno parte dei fiori per la paura i seguenti: Mimulus. Questo rimedio è indicato per la paura delle cose quotidiane, come la malattia, il dolore o lo stare soli. La paura di tipo Mimulus è sempre una paura nota e pertanto possibile dare un nome alla causa della propria ansia. Mimulus è indicato per le persone timide, ritrose, intimorite dalla gente e dagli eventi sociali. Il rimedio infonde un garbato coraggio a chi è impaurito e aiuta a superare il nervosismo. Mimulus fu anche uno dei primi fiori a essere scoperti dal dottor Bach nel 1930. Aspen, il rimedio per le paure che non hanno una causa identificabile, in altre parole, le paure sconosciute. Aiuta i sentimenti di apprensione, la spiacevole sensazione che qualcosa stia per accadere. Le paure di tipo Aspen possono anche mutare in un vero e proprio terrore, ma anche in questo caso la causa non sarà identificabile. Il rimedio aiuta a comprendere la vacuità delle proprie paure e a porle in prospettiva. Come diceva Victor Bullen, la paura bussò alla porta, il coraggio andò ad aprire e non trovò nessuno. Rock Rose, questo rimedio combatte il terrore o il panico, che possono talvolta insorgere quando si assiste ad un incidente o ci si sveglia con lucidità dopo un incubo. La paura di tipo Rock Rose è intensa, è stata causata da qualcosa e il rimedio aiuta a ristabilire la calma. Red Chestnut aiuta chi ha paura per l'incolumità, la salute o il benessere delle persone care. Le persone di tipo Red Chestnut si preoccupano tutto il tempo in cui i figli sono in gita scolastica, temendo che possano ammalarsi o farsi male in qualunque modo. Se uno dei coniugi fosse in viaggio, l'altro non riesce a riposare finché il primo non sia ritornato a casa sano e salvo. Questo rimedio aiuta a essere più sereni e a considerare le proprie paure nella giusta misura. Cherry Plum. Cherry Plum è il rimedio per la paura di perdere il controllo, ad esempio la paura della pazzia, di fare qualcosa di irrazionale o al di fuori del proprio carattere, incluso far del male a se stessi o a qualcun altro. Nello stato Cherry Plum si ha paura di perdere il lume della ragione, di crollare o di diventare isterici. Il rimedio aiuta a ritrovare pace e equilibrio mentale e ristabilisce karma e ragionevolezza. Passiamo quindi al secondo gruppo di fiori. Fiori per l'incertezza. Di questo gruppo fanno parte Sclerantus. Questo è il rimedio per l'indecisione e l'esitazione, per l'incapacità di decidere tra una cosa e l'altra. Vado o rimango, acquisto questo o quello. Prima di scegliere una cosa si decide per l'altra. Il dilemma può causare grande tormento mentale. Sclerantus attenua questa incertezza, aiuta a capire cosa si vuole e a prendere una decisione senza troppo travaglio. Cerato. Questo vivido arbusto aiuta chi dubita del proprio giudizio. Le persone cerato sono in grado di prendere decisioni senza troppi problemi, tuttavia non si fidano della propria intuizione e cercano rassicurazione degli altri. Chiedono il parere di amici, lasciandosi spesso confondere o fuorviare, magari finendo con il seguire consigli inadeguati. Cerato aiuta ad avere più fiducia nella propria capacità di giudizio. Gentian. Questo rimedio offre sostegno quando ci si sente scoraggiati, delusi o incerti o si sta per perdere fiducia. Spesso lo stato Gentian sopravviene dopo un insuccesso, come la perdita del lavoro, il mancato superamento di un test di guida o di un esame. Gentian aiuta a vedere una via d'uscita da tali sfortune e circostanze, concentrandosi su opportunità più favorevoli. Si può ritrovare un atteggiamento più positivo e sentirsi più fiducioso. Gors ristabilisce speranza ed ottimismo in coloro che sono divenuti pessimisti al punto di avere deciso di arrendersi. Nello stato Gors si è perduta ogni speranza di trovare la felicità o che si possa verificare un cambiamento positivo nelle circostanze in cui si trova. Nella malattia le persone Gors non hanno fiducia nelle cure intraprese e sono convinte di poter guarire. Talvolta non cercano neppure una cura, a causa del loro atteggiamento fortemente negativo riguardo alle proprie possibilità di miglioramento. Hornbeam. Questo rimedio è indicato per la sensazione che molti provano di tanto in tanto, forse più comunemente il lunedì mattina. Si tratta di una non sufficiente forza mentale per affrontare la giornata che ci attende nello stato Hornbeam. Si ci sente spossati al pensiero dell'impegno che incombe. Si tende a procrastinare perché tutto appare tedioso. Hornbeam ristabilisce la forza necessaria ad affrontare la giornata e a continuare a vivere la propria vita. Wild Oats. Questo rimedio, non preparato a base di avena, ma con un'erba selvatica, è indicata perché si sente smarrito, insoddisfatto di ciò che sta facendo o che ha raggiunto nella vita. Queste persone hanno delle ambizioni, ma non sanno in quale direzione orientarsi e non riescono a trovare nulla, nel proprio lavoro o nella propria vita, che dia loro il senso di appagamento che vanno cercando. Wild Oats aiuta le persone in questo stato ad avere maggiore determinazione rispetto a ciò che desiderano fare e a trovare una direzione da seguire nella vita al fine di ottenere appagamento e soddisfazione. Con questo fiore vi do appuntamento alla prossima puntata, ma prima di salutarvi vorrei ricordarvi i nostri indirizzi. Il nostro sito web www.energica-mente.it, la nostra email info@energica-mente.it, la nostra pagina Facebook e i nostri numeri di telefono: Elisa 339-3860123, Francesca 340-2345-340, Franco 329-8989-669. Saremo anche presenti alla Fiera dell'Artigianato a Firenze dal 22 aprile al 1 di maggio. Prima di salutarvi, però, come sempre, vi lascio con un altro pezzo di uno dei libri del dottor Patch. Il nostro fine nella vita consiste nel seguire i dettami del nostro io superiore, senza subire le influenze negative degli altri. Lo si può raggiungere solo se proseguiamo pian piano per la nostra strada, senza interferire nella personalità di un altro essere umano e senza arrecare danni a nessuno, o con l'odio o con la crudeltà. Dobbiamo imparare ad amare gli altri, incominciando da un solo uomo o anche da un animale, e lasciare poi che questo amore si espanda in un ambito sempre più vasto, finché i difetti che gli si oppongono spariranno automaticamente. L'amore genera amore, l'odio produce l'odio. Guarisci te stesso, del 1930. Buon fine settimana a tutti, da Elisa. Un abbraccio e ci vediamo alla prossima puntata, sempre qui su Radio Big World.